voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. It's senior year. I mean, don't you think it's time you learn how to take a dump at school? When was the last time you looked at the facilities in the school? Can't profumo di eclettica. Saw the branches of the trees upon the street like veins, a patch of grass where mushrooms grew. Then I thought again, this is how it's gonna be, and I will have to change. This is what you think you mean, you better think again. All I that's what they thought. People always bitching about dignity, respect. What they mean, it's clear to me. It's fear, money, and sex. Being right and being strong, there is no other way. Ad aprire la seconda parte di Eclettica di questa settimana, due brani non dissimili fra di loro nella struttura. La differenza sono 4 anni, infatti il primo, Terra Nova, da parte degli esordienti a Like Trains, era estratto da Progress Reform, uscito per la Talitrus Records, il brano che li sta caratterizzando in questo periodo, perlomeno all'interno delle playlist di Eclettica. Invece siamo andati indietro, grazie a Profumo di Eclettica, le riscoperte dalle vecchie playlist di Eclettica, solo di 4 anni. A volte andiamo indietro di molti di più. Quest'anno siamo andati indietro solo al 2002. Abbiamo la possibilità di tornare fino al 1994, anno di inizio di Eclettica sulle frequenze di Rock FM. Siamo andati a riascoltare la voce di John Grant, una pubblicazione Bella Union da parte dei Czars. One Single Thing è il brano che ha caratterizzato Eclettica. Ora un po' di modifica rispetto alla struttura già precedentemente sottolineata, in quanto ci sono 100 pubblicazioni per la ESL Music a nome ESL Remixed, quindi è questo un anniversario che viene ricordato da parte di Eric Hilton e Rob Garza, che non solo sono discografici, ma sono anche musicisti sotto la sigla Thievery Corporation. La 18th Street Lounge Music quindi festeggia 10 anni di attività e il numero 100. Hanno scelto di riunire alcuni dei migliori brani della loro storia e li hanno affidati alle console di Medeski, Martin & Wood, Beat Fanatic, Lexico, Fort Knox White, Shawn Lee e così via. Brani di diversi artisti usciti in questi 10 anni, brani come quelli dei Thievery Corporation stessi o dei Thunderbolt, di Joe Button, di Ursula 1000, di Federico Ubele o anche di Karminsky Experience, come la Exploration che ci ascoltiamo adesso in Eclettica nella versione Medeski, Martin & Wood Mix. Thank you. La mano che le accarezzava la guancia era delicata, ma di una grandezza inquietante. Sembrava quasi grossa quanto la sua testa. Lei intuiva che se avesse osato schiudere le labbra e gridare, la mano avrebbe smesso di accarezzarle il viso per attanagliarle la bocca con quelle dita enormi. «Non fare resistenza», le sussurrò la voce maschile, rovente, all'orecchio. «Non serve a niente, tanto succederà comunque». Lei aveva già sentito quelle parole. Avrebbe dovuto sapere che cosa l'aspettava, ma era come se i ricordi le si fossero cancellati dalla mente dopo l'ultima volta che l'uomo l'aveva stretta fra le braccia. Questo era l'incipit dei 199 gradini di Michael Faber. Anche la seconda parte di Eclettica di questa settimana, esattamente come la prima, ha pochi brani al suo interno, perché ce ne sono molti per singola parte assai lunghi, come anche quello che ci siamo appena ascoltati, che è il nuovo DJ Kicks che esce per la K7. In questo caso il DJ in questione è Henrik Schwarz, arriva da Ravensburg, Germania, ma ormai è da diversi anni berlinese di adozione, e ha creato una tracklist per la sua DJ Kicks molto molto variegata, per usare un termine che non sia troppo vicino al nome della trasmissione. Ci sono nomi fra di loro agli estremi, e io sono andato a scegliere un brano nella versione Henrik Schwarz Remix, che è proprio un po' la summa di quanto detto, perché è un brano originariamente di Joe South. Per esempio nella compilation ci sono anche brani di Marvin Gaye o di James Brown. In questo caso era un brano che originariamente era di Joe South, però lui è andato a prendere non la versione di Joe South, ma quella che recentemente avevano fatto i due DJ londinesi Matt Black e Jonathan Moore, che conosciamo meglio con il nome d'arte di Cold Cut. E lui a sua volta l'ha rielaborata, brano che aveva per titolo Walk a Mile in My Shoes. Seconda parte di Eclettica, che si chiude con un album che io stesso avevo preannunciato trasmettendo un disco che non era nuovo dei Subtle, ma un disco compilation. Era in preparazione di Four Hero, Four Fool, quello che è il loro nuovo disco, che finalmente è arrivato fra le mie mani, esce sempre per la Lex Records. Purtroppo loro stessi hanno dovuto confrontarsi con un terribile incidente d'auto che ha reso il tastierista Dax Pearson paralizzato dal petto in giù, ma come già altre band nella storia della musica, non sto qua a citarle, hanno fatto, comunque hanno portato avanti la formazione con la sua presenza, nonostante le difficoltà del caso, ma lui rimane parte dei Subtle, che ci ascoltiamo con la traccia numero 7 delle 11 comprese in Four Hero, Four Fool. Questa traccia numero 7 che chiude la seconda parte di Eclettica, traccia che ha per titolo The Mercury Craze. When last we left him, our hero, yes, was recently diagnosed in last harbor of a most unusual sort of blood. Who knew? I'm quite surprised by the news himself, and still the genuinely unlucky man. Seated, not stop, smile. cause evening's eats haven't got the bequeath. Mother rich is too rich, whose only child is especially sick. The bear scared, paralyzed, reading weak, yelling help across a good 200 feet. A set table, yours far full of ills. Lie perfectly still, like straight seems to few when you just want to do as the new. Latest craze with the disparate world. I get the wrong right idea. You're not on another episode happening. You self-proprietor, all that priceless red wet. You self-proprietor, all that priceless red wet. Yeah! Eclettica, fine della seconda parte.